Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Spero sia un anno comunque buono e che ci porti benessere a noi studenti. Passarlo bene, studiare e cercare di farmi sotto, insomma. Spero di imparare tanto. Nuove esperienze, nuovi amici. Di passare senza debiti. Spero che sia un anno fantastico, mi aspetto comunque un anno abbastanza difficile, però che dia soddisfazioni. Le voci di chi riprende, di chi ha ripreso questa settimana la scuola. Un po' di paura perché comincia un nuovo ciclo, ma anche, l'avete sentito, la voglia di imparare. Meno male che quella c'è ancora, c'è sempre, tutti gli anni, nonostante la scuola viva tempi difficili, fra le proteste dei precari, fra i tagli che impongono molte rinunce. Pensate, tanto per capirci, alle immagini che hanno fatto il giro di tutte le TV dei bambini romani che si sono portati da casa le seggioline oppure hanno dovuto disegnare sdraiati per terra. Comunque, anche quest'anno si ricomincia. E ricominciamo anche noi di Obbligo di Frequenza a proporvi tutte le settimane le storie di scuola che ci raccontano anche un po' il nostro paese, a proporvi qualche piccolo spunto di riflessione. Questa settimana, ad esempio, parliamo del tetto del 30% degli studenti stranieri nelle prime classi di primaria e secondaria di primo grado. Doveva infatti essere questo l'anno del debutto, ma di quella legge che tanto aveva agitato commentatori, esperti, politici, sicuramente lo ricorderete, nella realtà non c'è traccia, tanto che lo stesso ministro della Pubblica Istruzione Gelmini giovedì ha annunciato pochi dirigenti che hanno visto negativamente la regola del 30% non l'hanno applicata. Ci stiamo già lavorando, dal prossimo anno queste situazioni non si verificheranno più. Se li levano gli italiani giustamente non ci stanno, se invece li portano sicuramente ci saranno più italiani. No, non è logica questa. Ormai siamo una cultura, come si dice? Quindi come fa a essere un problema? Se si vive tutti bene, in armonia, io rispetto a te, tu rispetti a me. Molto contenta. Io sono contenta perché mia figlia, lei molto contenta, pure io. Maestre ci sono bravissime. Tutto a posto. Per me tutte bimbi uguali. Bimbi italiani, bimbi stranieri. Per me tutte uguali. Ci stanno certi i genitori che vogliono che parlino la lingua loro, però secondo me no, perché alla fine siamo qua, fanno bene come prima lingua l'italiano, la seconda, poi il figlio mio è nato qua, voglio dire, cioè alla fine ha imparato romano pure lui. Eccole qua le voci delle mamme della Pisacane di Roma, proprio quella a cui si riferiva la Gelmini, qui niente tetto del 30%, anche se pensate il 97% degli iscritti è straniero. Ma straniero poi cosa significa oggi, soprattutto quando si parla di bambini? La nostra Alessandra Schepisi si è fatta una chiacchierata con la preside della Pisacane, Flora Longhi. Bisogna guardare bene la Costituzione nella scuola dell'infanzia. Se nella scuola dell'infanzia ci sono bambini italiani e stranieri, poi alla scuola primaria arrivano. Perché ogni scuola primaria fa le attività di continuità con la scuola dell'infanzia. Se si è creata una concentrazione forte lì di bambini di cittadinanza non italiana, è inevitabile che poi... Perché si è creata questa concentrazione? Ah, questo non lo so, non lo puoi chiedere a me perché non c'ero io. Non lo so come è successo. Non si sarebbe dovuta creare in teoria? Certo, certo. Perché se si crea così, adesso no, siccome qui vicino alla scuola dell'infanzia c'è il nido che ha bambini, che ospita bambini italiani, stanno lavorando in maniera tale che se passano alla scuola dell'infanzia è ecco lì che si ripristina l'equilibrio. Secondo lei eccessiva concentrazione di alunni stranieri in una classe provoca dei problemi? Senta, io stamattina sono andata a vedere per rendermi innanzitutto per augurare ai bambini delle seconde, terze, quarte e quinte buon anno scolastico e anche per farmi conoscere perché non mi conoscono. Devo dire che li ho trovati a lavorare divinamente. Tranquilli, sereni, anche perché vengono dalla scuola dell'infanzia che sono alfabetizzati. Cioè non ci sono bambini che non parlano la lingua e che potrebbero ritardare l'apprendimento parte degli altri. Anche perché poi i bambini stando nel gruppo dei pari seguono bene i bambini, come ripeto, sono anche alfabetizzati. Se ci si confronta i problemi non ci sono, certo, chiaro? Certo. Perché molte volte è il pregiudizio che si ha e che rovina tutto. Bisogna essere aperti. aperti al confronto, esercitare veramente i diritti di cittadinanza attiva. D'altra parte qui ci vivono accanto, ci vanno, certo, a fare la spesa. Da Roma a Milano lo scenario è lo stesso. Siamo nelle vicinanze di via Padova, quella degli scontri etnici. Francesco Cappelli è a capo di uno dei poli start individuati proprio come punto di riferimento fra le scuole che hanno il maggior numero di studenti stranieri. Anche qua, niente tetto. Di fatto gli alunni sono andati nelle scuole che hanno scelto, senza spostamenti determinati dal tetto raggiunto. E mi sembra di capire che sia successo così in tutta Milano. Sì, sì, sì, in Milano, ma anche in regione Lombardia. Nessuna richiesta da parte di un genitore, diciamo, di un alunno straniero è stata comunque delusa. Avete detto a nessuno andate nella scuola vicina. L'unico criterio regolatore, come sempre succede in questi casi, è stato il bacino d'utenza. Ma questo perché non si sono concentrate le richieste di iscrizione di ragazzi stranieri nelle stesse scuole, o perché comunque era un criterio un po' poco applicabile? I criteri che avevamo concordato a livello di ufficio scolastico provinciale, che non si consideravano, cioè le deroghe venivano applicate per quegli alunni che avevano una scolarità pregressa in Italia, ad esempio gli ultimi 2 anni di materna o l'essere nati a Milano per la prima elementare, o almeno 3 anni, gli ultimi 3 anni di scuola elementare per le medie, gli alunni che si iscrivono alla prima media. Quindi applicando questo criterio, avendo già una buona parte dell'utenza consolidata, per dire, io l'80% dei bambini in prima elementare che sono nati in Milano e hanno fatto anche la materna in stragrande maggioranza in Italia, in prima media il 90% ha fatto almeno 3 anni, ma molti hanno fatto i 5 anni di scuola elementare prima, quindi applicando questi criteri il 30% viene assolutamente abbattuto, insomma. Quindi la legge è stata applicata, perché è stata applicata in tutte le sue, diciamo, sfaccettature, però di fatto questo tetto non esiste da nessuna parte. Applicando questo criterio, il tetto è diventato inoperante, ecco, questa è la sostanza. Ma lei, quando è venuta fuori questa legge, che cosa ha pensato? Ma ho detto subito che, conoscendo l'utenza e l'utenza media di Milano, non si sarebbe raggiunto questo tetto. Questo l'ho detto subito, anche pubblicamente. La scuola al cinema, un filone che piace molto ai registi, anche a noi piace consigliarvi qualche bel film da vedere. È costato solo 10.000 euro, pensate, ma è stato applauditissimo alla recente mostra di Venezia. Gli attori e sceneggiatori non hanno potuto prendere parte alle interviste, alle conferenze stampa, perché troppo piccoli sono infatti gli studenti di 2 scuole medie della periferia di Cagliari, il San Michele e il Sant'Elia. Il film si intitola Tayabon ed è di Salvatore Mereu. Lo ha intervistato Marta Cagnola. Questo film è nato in un laboratorio scolastico dove si chiedeva agli allievi di scrivere una sceneggiatura, e quindi questa è la ragione. Non avrei mai tolto questa possibilità, e credo che questo sia però il vero motivo d'orgoglio di tutta questa operazione, perché il film forse oggi ci dimostra che dei ragazzini di 12-13 anni possono scrivere una storia per il cinema se partono da loro, insomma. Come è avvenuto tutto questo? Abbiamo cominciato a fare un corso quest'anno da novembre a giugno a Cagliari, in 2 scuole di 2 periferie di Cagliari. Lo scopo del corso era quello di insegnargli il cinema, e dopo un'iniziale, come dire, titubanza, i ragazzi si sono impossessati del mezzo e hanno cominciato, attraverso questi brevi racconti, a far parlare qualcosa di sé. È così che è nato tutto. Io ho fatto, come dire, la levatrice in questo caso qua. Sentivo che c'era un mondo che doveva essere, come dire, esplorato ed evocato, e ho fatto in modo che loro avessero gli strumenti perché questo venisse fuori, e poi l'abbiamo portato sullo schermo. Qualcuno penserà alla classe di Canté, sì, però viene anche in mente De Seta, il diario di un maestro. Vedi, hai citato i nostri 2 modelli di riferimento. La classe è servito per dare il là. Io ricordo che la mattina in cui gli ho mostrato il film, loro hanno capito esattamente quale sarebbe stata la finalità del nostro corso. Hanno capito che con un film ci si può raccontare, e che un ragazzino di 12 anni può diventare. De Seta era un riferimento per me. Io amo molto il suo cinema, ma in questo caso specifico lui ha già fatto. Aveva filmato un'esperienza di questo tipo partendo dai libri di Albino Bernardini, Un anno a pietralata, e Diario di un maestro è stato il nostro modello di riferimento. Sarebbe bello farlo vedere nelle scuole questo film. Certo, mi piacerebbe molto e sono sicuro che tutti quanti probabilmente registrerebbero, avvertirebbero che si tratta in fondo di un diario, solo che i sentimenti che loro fanno correre non li fermano su delle pagine ma sulla pellicola. Ed è tutto, noi ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45. Se volete riascoltare questa puntata, radio24.it. Un saluto da Maria Piera Ceci.